prende ispirazione anche da una persona che è realmente esistita, che però io non so se sia un uomo o una donna, che ha lasciato una testimonianza su un forum di psichiatria dove raccontava il suo periodo di volontariato all'inizio degli anni 90, e da un altro punto di vista è anche una sorta di mio alter ego, perché è colei il personaggio che porta avanti la detection e quindi quella che scopre le storie, i misteri sepolti nell'isola, come poi l'io narrante farà nella parte finale del romanzo, che è ambientata invece a Budro, che è la cittadina dove io sono vissuta, dove sono cresciuta e dove vivo tuttora, e che forse è il cuore del mio desiderio di raccontare il disagio della psicologico, il disagio psichiatrico, perché è un posto dove c'erano due istituti e io sono cresciuta in mezzo a queste persone, e devo dire che sono contenta perché mi ha dato la possibilità di capire molto presto che la normalità non è una cosa unica, non esiste, ognuno è normale a modo suo. Alcuni di questi dei personaggi che tu narri in questo romanzo finirono all'Eros nel manicomio per le ragioni più assurde, più banali, magari un bambino che era rimasto orfano, era stato abbandonato dai genitori, non sapevano dove metterlo e finisce in manicomio. Una ragazza che in realtà è stata vittima, Teresa, di abusi sessuali e di altre forme di abusi, finisce così in manicomio. Prima purtroppo era una cosa molto frequente. Probabilmente al giorno d'oggi, se non ci fosse stato Basaglia, se non ci fosse stata tutta una rivoluzione culturale, filosofica e medica, molti di noi potremmo finire lì. Sì, è vero anche che è un argomento del quale poco si parla, questo, ed è molto difficile capire che cosa stia succedendo nel nostro paese, in molti altri anche naturalmente, però nel nostro paese, perché le leggi non sono molto chiare, nel senso che ci sono tante piccole comunità, i manicomi sono stati chiusi, però ci sono tante piccole comunità che hanno delle gestioni differenti a seconda del luogo, e quindi in verità, parlando con degli operatori psichiatrici, ho avuto occasione in questi mesi, da quando poi il libro è uscito ancora di più, ci sono molti casi di strutture nelle quali succedono delle cose che noi non immaginiamo o immaginiamo che non dovrebbero più succedere. Per esempio la contenzione viene ancora utilizzata, e soltanto mi pare un paio di anni fa a Cagliari un uomo è morto nel giro di poche ore, rinchiuso in cella di isolamento. Quindi purtroppo sono situazioni che accadono ancora, e poi ci sono tutte le varie sfumature. Diciamo che noi riusciamo a tenere a bada ormai tanti disagi psicologici con l'utilizzo dei farmaci, che forse sono prescritti anche con un pochino di troppa facilità, insomma. Dicevamo che ci sono tante storie in questo romanzo, ci sono anche scene forti, molto dolorose, perché parlano di disagio psichico, ma anche di torture, possiamo dire così, perché questi malati di mente erano tenuti in condizioni veramente al limite del... No, posso dire che non erano condizioni umane, assolutamente. E c'è proprio l'incipit di questo romanzo. Tu attacchi descrivendo una foto di una bambina, quindi una bambina tenuta legata in un manicomio, di fatto una clinica di Grugliasco in provincia di Torino. Era una foto che era stata pubblicata, tu lo scrivi, nel 1970 sull'Espresso. Come ti sei trovata a narrare queste scene molto forti? Da lettrice ci sono stati dei momenti in cui è stato faticoso dover andare avanti per l'orrore che si intuiva c'era dietro le cose che tu descrivevi? Dire la verità, io ho cercato di non calcare tanto la mano su questi aspetti, sulle descrizioni. Le cose che ho raccontato purtroppo sono cose vere, sono documentate dalle immagini di Antonella Pizzamiglio, e sono documentate dagli scritti che i basagliani hanno prodotto poi al ritorno dei loro mesi trascorsi sull'isola, tentando di deistituzionalizzare questo posto e di renderlo un posto umano. Io non la sento questa, poi mi rendo conto che forse per un lettore invece può essere... Ci sono delle scene sì drammatiche, ma forse è vero, è il lettore che con la sua mente, con la sua fantasia va al di là di quello che tu descrivi. Beh, che poi quello che dovrebbe, secondo me, fare la letteratura, perché puoi mostrare fino a un certo punto, però quello che devi fare è cercare di evocare. Quindi naturale che se racconti una storia così drammatica, così forte, così allo stesso tempo anche se ambientata in tempi passati, attuale, perché comunque certe dinamiche si riproducono anche nel mondo contemporaneo in tanti luoghi. A volte non sono i malati di mente, possono essere però, per esempio, io immagino la situazione in questo momento dei profughi che scappano dai paesi in guerra e che tra l'altro una delle isole nelle quali fanno tappa, scalo. Diciamo che non si sa poi che cosa succede esattamente, perché l'Eros in questo momento è diventato un hotspot e negli stessi luoghi dove venivano reclusi i malati di mente, adesso sono reclusi questi migranti e non si sa quanti di loro poi riusciranno ad ottenere lo status di rifugiato e arrivare in Europa e quanti invece verranno rispediti indietro. Quindi è una situazione molto drammatica anche adesso. E questa era Simona Vinci, autrice di La Prima Verità, il romanzo che ha vinto il Campiello 2016. A decidere la vittoria è stata una giuria popolare di 300 lettori. Inizialmente la Vinci temeva che il tema trattato e alcune, diciamo, scene raccontate avrebbero così potuto disturbare il pubblico. Invece questa storia estrema è piaciuta ai lettori. Il perché a questo punto lo abbiamo chiesto alla stessa Simona Vinci dopo la proclamazione della vittoria. Probabilmente questo io narrante che comincia e che apre il romanzo e anche lo chiude nella sua parte finale, è un io narrante che, come tutti, insomma, un io narrante è sempre in parte aderente all'autore, in parte no, e evidentemente però riesce a tendere una mano verso chi legge e portarlo dentro queste vicende, a farsi raccontare storie che hanno a che fare con mondi anche difficili da ascoltare, veramente. Poi forse c'è la sincerità, e con sincerità intendo il fatto che è un libro che non è scritto per me con furbizia, ma è un libro scritto con passione. Tu vai molto sul confine normalità-follia, naturalmente, in questo romanzo. Questo è un tema che non ha spaventato a questo punto i lettori, anzi, li ha interessati. Perché, secondo te? Ma perché è un tema che riguarda tutti, io credo, perché tutti quanti abbiamo idea in certi momenti della nostra vita di non essere adatti, di non essere normali. Capita a tutti di avere dei momenti di depressione, capita a molti di avere dei periodi di depressione che diventano qualcosa di peggio perché non ascoltati e non compresi, perché spesso chi ha dei disagi psicologici non ha il coraggio di ammetterlo neanche con se stesso, non ha il coraggio di mostrarsi agli altri. Altre di chiedere aiuto. E quindi forse è questa la chiave. Poi anche perché parla di qualcosa che, anche se la gran parte del romanzo è ambientata su un'isola greca, in un manicomio lager, la parte di narrazione è ambientata alla fine degli anni 60 al regime dei colonnelli, però comunque parla di che cosa il potere può fare alle persone che non sono desiderate, quindi come si fa a mettere al palo e a nascondere qualcuno. E questo parla anche del mondo contemporaneo. Una breve pausa e poi torneremo ancora a parlare di libri. E ora un ricordo di Herman Norea, scrittore napoletano morto la scorsa settimana a 89 anni. Aveva lasciato Napoli da quasi 60 anni, eppure quella città dove era nato e cresciuto gli era rimasta nel cuore. Spesso i suoi libri partivano da fatti di cronaca, sui quali Rea poi accendeva, come dire, una luce diversa. Per esempio in Mistero Napoletano, quando raccontava di una giornalista dell'Unità, tra l'altro sua grande amica, che era morta suicida. E poi in La Dismissione, romanzo dal quale fu tratto il film La Stella che non c'è, che parlava della chiusura dell'Ilva di Bagnoli. L'avevamo intervistato nel 2006, proprio in occasione dell'uscita del film tratto dalla Dismissione. Risentiamo un estratto di quell'intervista. Narra come dire, la liquidazione, lo smantellamento di una fabbrica che, come dire, è un pezzo di storia napoletana. Parlo dell'Ilva di Bagnoli, nata ai primi del Novecento, per volontà soprattutto di un grande statista, Nitti, Francesco Saverio Nitti. E questa fabbrica che ha, come dire, incarnato le speranze di modernizzazione della città, no? Il giorno in cui è stata smantellata, naturalmente, come dire, ha posto una serie di problemi, ha indotto costretto a fare dei bilanci. Ecco, io ho vissuto, sono nato a Napoli, ho vissuto la vicenda Ilva, diciamo, nel rapporto al mio impegno sociale e politico negli anni 50 e così via, e ho ritenuto che questa dismissione, come dire, fosse un'occasione giusta per porsi una serie di domande, per capire che cosa era successo nella città in cui sono nato e alla quale, benché io sia andato via nel 1957, cioè tantissimi anni fa, è una città con la quale conservo legami e rapporti intensissimi. Questa dismissione è una dismissione, abbiamo visto, della fabbrica, ma anche di una serie di valori che in qualche modo legavano la città all'esistenza di questo polo industriale. Una storia che è raccontata attraverso la voce del protagonista, Vincenzo Buonocore, che ha il compito appunto di vigilare su questa dismissione. È anche un personaggio un po' nevrotico, perché assume questo compito come se fosse un compito di importanza vitale. In che modo ha disegnato questo personaggio? Io dico questo a proposito anche del film, cioè io sento bisogno di ringraziare Amelio, perché lui ha selezionato, diciamo, del libro la parte tutto sommato più creativa, quella proprio che riguarda questo personaggio, le nevrosi anche di questo, possiamo anche chiamarle nevrosi di questo personaggio, cioè il proprio attaccamento al lavoro, la sua passione per la precisione. E questo personaggio viene descritto nel libro come figlio di una specie di come dire, piccolo scultore, di un artigiano che scolpisce putti e fiori sulle tombe, sulle bare dei morti, e ininterrottamente per tutta la vita cerca di perfezionarsi, di migliorare, di essere sempre, come dire, di raggiungere un livello di qualità sempre superiore. Il figlio eredita, per così dire, questa smania, e vuole essere anche un po' la controcartolina rispetto a quello che normalmente si dice della gente di questa città, del pressappochismo, della superficialità, di cui non sempre giustamente, non dico del tutto ingiustamente, ma dico non sempre giustamente il napoletano gode. Ecco, il Vincenzo di cui io parlo nel mio libro è, come dire, il rovescio di questa cartolina, è l'anticartolina del napoletano menefreghista infingardo, è quello che anzi eleva, come dire, a proprio mito, quasi a ragione di vita, che si realizza attraverso un'interrotta rincorsa al perfezionismo. Il personaggio di Vincenzo Buonocore poi si intreccia anche con un personaggio femminile, Marcella. C'è anche una storia d'amore sullo sfondo di questa dismissione. Certo. In questo senso, l'amore come l'ha voluto rappresentare? Anche in questo caso la dismissione è un simbolo? Ma diciamo che anche la figura di Marcella appartiene, come dire, è in certo senso una figura a sua volta, io mi auguro, vera, cioè credibile e nello stesso tempo simbolica, tanto è vero che la sua morte viene raccontata un po' in parallelo alla morte della fabbrica, un po' vi allude, e quando c'è il funerale di Marcella, diciamo, tutta la gente di Bagnoli vi partecipa, ed è un esequio che in qualche modo è nello stesso tempo le segue di questa ragazza, ma anche le segue diciamo di quello che la fabbrica ha rappresentato per quella popolazione. Il padre di Marcella è stato un sindacalista, un uomo che ha goduto anche di una vasta popolarità, che era amato dalla gente, e quindi a maggior ragione dalla fine della figlia come dire, rievoca questa figura di operaio, di straordinario operaio. Certo, il simbolo è costantemente presente, insomma, nel libro, sono quei libri che giocano su un doppio binario, insomma, senza dubbio. Anche la figura di Vincenzo, a suo modo, ripeto quello che dicevo prima, ha in qualche modo una carica di simbolicità, vuole rappresentare il lato migliore del napoletano, del meridionale, insomma, ecco, questo meridionale cui il lavoro è negato, ma che ama il lavoro al di sopra di tutto. E questo era Ermanno Rea in un'intervista del 2006, così abbiamo voluto ricordare lo scrittore scomparso a 89 anni. Prima di chiudere, una segnalazione sui festival culturali. Torino Spiritualità, a Torino naturalmente dal 28 settembre al 2 ottobre. Tema distinti animali. Lo sguardo degli animali per riflettere sull'essere umano. Ci saranno 5 giorni di dialoghi e incontri con scienziati come Sean Ellis, che ha vissuto 2 anni con un branco di lupi, scrittori come Edoardo Albinati, vincitore dello Strega, e Michela Murgia, psicanalisti come Massimo Recalcati. Trovate tutto il programma su torinospiritualità.org. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Paolo Corleoni. Vi ricordo che come sempre potete seguirmi su Twitter e trovate tutte le puntate d'archivio su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.